Radio Tube Social Village di Marta Cagnona. Eccoci, sono le 16.06 e 26 minuti a Radio 24. È il momento di iniziare il nostro sabato pomeriggio in diretta con le due ore di Radio Tube Social Village Social Network. Quindi tanti spettacoli e poi tutta l'attualità vista attraverso gli occhi della rete. Questo sabato con un sacco di ospiti, io ve lo dico, nella prima ora avremo due donne pazzesche, preparatevi, io sarò molto entusiasta, lo so, poi vi arrabbiate come quando sono fin troppo entusiasta, ma non vi dico ancora i nomi, sappiate che non dovete spegnere la radio, non dovete cambiare, dovete stare con noi fino alle 18. Dobbiamo parlare di un sacco di temi, io vi ricordo tutti i nostri riferimenti, parleremo molto anche di serie TV, quindi so che poi sulle serie TV ci scrivete sempre molti messaggi, 349-238-6666, sia per gli SMS che per i WhatsApp, invece i miei account social sono @MartaCagnola, sia su Twitter che su Instagram, invece Facebook non lo uso quasi più, quindi Twitter e Instagram sono i metodi più facili e più veloci per raggiungerci e per raggiungermi in queste due ore soprattutto. Allora, da quale argomento partiamo? Vabbè, grande attesa per un evento enorme che sta per arrivare al cinema e quindi partiamo da qui. Qualcosa dentro di me è sempre stato lì e si è risvegliato. Mi serve aiuto. Ho visto questa forza bruta solo una volta. Allora non ebbi paura. Ne ho adesso. Beh ragazzi, 13 dicembre, Star Wars, gli ultimi Jedi o Jedi, a seconda di come lo vogliate pronunciare, arriva, io conosco già gente che ha comprato i biglietti per andare a vederlo da un sacco di tempo, ma cosa dobbiamo sapere di questo film prima di andarlo a vedere? Come possiamo metterci in pari? Perché si sa che per quanto riguarda Star Wars bisogna stare attenti a quale parte della saga sia. Vabbè, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito in causa il nostro esperto, lui è sempre il nostro faro nella notte per quanto riguarda questi argomenti e su Star Wars sa veramente di tutto e di più. Chiocciola, Dio e grazie per, bentornato a Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ciao Marta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Emilio, quanta attesa? Tantissima, come ogni film di Guerre Stellari ormai tradizionalmente crea. C'è un piccolo dettaglio che abbiamo scoperto di recente, un paio di settimane fa, che Guerre Stellari potrebbe accompagnarci in vita naturale durante tutti gli anni, nel senso che è già stata ufficializzata una nuova trilogia di cui non si sa nulla e che per la prima volta si discosterà dalle vicende della famiglia Skywalker e ci accompagnerà probabilmente chissà per quanto tempo, per cui insomma attesa grandissima, però a questo punto potrebbe diventare un appuntamento veramente tradizionale, direi. E però un appuntamento tradizionale crea magari un filino meno di attesa, non lo so, magari può diventare anche un po' più un'abitudine, anche se credo che per i fan di Guerre Stellari non sia mai abbastanza. Emilio, ci dai un ragguaglio su dove si colloca la storia che andremo a vedere al cinema dalla prossima settimana? Dal punto di vista dell'universo di Guerre Stellari visto fin qui, è il proseguo dell'ultimo episodio, quindi il 7, il risveglio della forza, uscito 2 anni fa. E porta avanti l'esalogia, che ormai è diventata composta da 7 film, e per cui continua le vicende di Rey, questa nuova eroina. Non si sa come e non si sa quanto imparentata appunto con la famiglia Skywalker, che in realtà è la protagonista, diciamo, di tutta la saga, e che pare, si mormora, lo sceneggiatore Rian Johnson, che poi è anche il regista del film, possa rivelare una sorpresa addirittura superiore a quella che, senza rovinare nulla, i fan di Darth Vader ebbero nell'Impero Colpisce Ancora. Difficile che la superi, ma è probabile, o se non altro è anticipata. Quindi insomma siamo 30 anni dopo la trilogia classica e vedremo cosa succederà a Rey, al nuovo cattivo Kylo Ren, che sappiamo essere invece, come dire, il figlio di Han Solo e della povera principessa Leia. Allora Emilio, cosa dobbiamo guardare per arrivare preparati? Io immagino, insomma, non tutti sono dei conoscitori di Star Wars, quindi per non fare brutta figura quando si va al cinema con gli amici, ma soprattutto per sapere, così per attaccarci alla storia, secondo te quali film vale la pena vedere per andare al cinema un po' preparati la prossima settimana? Insomma, mi chiedi se sei nata primo l'uovo la gallina, è una diatriba apertissima. Intanto, lo so che ci sono due scuole di pensiero, esatto. Raccontacele. Intanto riassumiamo brevemente una cosa: Guerre Stellari è l'epopea più fortunata e più famosa del cinema, non si arrabbino i fan del Signore degli Anelli o di tante altre saghe, Star Trek compresa, ma Guerre Stellari è la saga più importante dal punto di vista della storia del cinema dei tempi recenti. Il primo episodio, o meglio episodio 4, uscì nel 77 e nonostante un'anteprima disastrosa, l'unico che crebbe nel film fu Spielberg, che aveva previsto un incasso di 33 milioni di dollari entro la fine dell'anno. Ebbene, il film a oggi ne ha incassati 1,480 milioni di dollari. Questo per far capire. Ripeto, il primo episodio, per paradosso, uscito al cinema era l'episodio 4. Da allora, dal 77 in poi, e uscì quella che è famosa come trilogia classica, quindi L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi o dello Jedi, come giustamente dicevi prima, mentre ci sono voluti più di 20 anni per aspettare i primi tre film, la famosa trilogia prequel, che è composta appunto da altri tre film diretti sempre da George Lucas e che andrà adesso a essere continuata da questi ultimi. Il dubbio è questo: se si rivedesse come sono usciti al cinema, si dovrebbe partire da episodio 4, per cui fare questo percorso strano 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, che è piuttosto strano, certo. Però così si manterrebbero tutti i colpi di scena così come erano stati concepiti dalle sceneggiature originali. Cioè avremmo quella sorpresa di cui dicevamo prima e che gli amanti Star Wars conoscono bene. Bravissima. Se invece volessimo seguire un ordine cronologico, diciamo, logico, partendo dal primo episodio, per cui 1, 2, 3 e così via, fino ad arrivare al prossimo, che è l'ottavo, non avremmo quella sorpresa, ma, come dire, capiremmo tutto molto, molto chiaramente. Ah, certo, certo. Parentele, è un po' come una sorta di, adesso mi uccideranno i milioni di fan, è un po' come una soap opera galattica. Beh, soap opera galattica ci sta, dai. No, effetti, anche perché ci sono delle robe di parentele importanti, diciamolo così, molto, che alla fine... Molto importanti. Molte di queste cose inattese riguardano certi gradi di parentela. E quindi tu cosa preferisci? Io preferisco l'ordine classico con le sorprese, casomai. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo, perché appunto fu così concepito all'inizio, per quanto Lucas abbia sempre dichiarato di avere già, come dire, quando si mise a scrivere la prima riga del primo film, cioè nel 72, avere già in mente 9 capitoli, in realtà io credo che non sia esattamente così. Poi le sceneggiature infatti sono state rimaneggiate e il più delle volte non scritte da lui, per cui io ritengo che la cosa più gustosa per un fan sia vederli, come dire, in ordine storico, cioè dal 4 tornare al primo e ora godersi gli altri. Però nulla vieta che insomma per un maggiore ordine se li si guardi dall'1 all'8. Perfetto, allora questo è per prepararci ai film. Adesso diamo una piccola pausa, perché invece vorrei capire tutto l'universo che, come in ogni episodio della saga Star Wars, gira attorno al film, perché il merchandising non è affare secondario, l'abbiamo già spiegato una volta. Allora Emilio, facciamo una breve pausa, il traffico, e poi ci troviamo ancora insieme con RadioTube. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta RadioTube Social Village. Beh, non potevamo non farla sentire almeno una volta. Allora, stiamo parlando di Star Wars. Il 13 esce il nuovo capitolo. Abbiamo capito a che punto della storia si colloca. Peraltro il nostro Emilio Cozzi ci ha spiegato che poi di derivazioni ce ne potranno essere ancora molti, perché potrebbe diventare addirittura un appuntamento annuale. Ma caro Emilio, sempre con noi al telefono, Emilio Cozzi, @addiograzieper, andatelo a cercare su Twitter, perché così trovate anche tutte le cose di cui si occupa su moltissime testate, e io sono anche molto contenta che scriva per il Sole 24 Ore e per i nostri supplementi. Emilio, quando tu prima hai parlato di quello che ha guadagnato tutta la saga di Star Wars, hai citato anche il merchandising, gli oggetti. Non è un dettaglio anche nella storia del cinema quello che riguarda Star Wars, Emilio? Non è affatto un dettaglio, ed è stata un'altra intuizione geniale di Lucas. Bisogna permettere un piccolo aneddoto che in realtà è molto poco conosciuto. Nel 54, quando Lucas era piccolino, Disney, guarda caso, promosse questo David Crockett, una serie televisiva che alla fine dell'anno portò nelle casse di Topolino 300 milioni di dollari nel 54. Perché? Perché vendettero fucili di plastica e il famoso cappello con la coda in pelliccia di procione. Quello che ricorda un po' le giovani marmotte. Bravissima, fu un esperimento unico nella storia del cinema, perché quando invece George Lucas nel 76 andò a firmare il contratto per Guerre Stellari, peraltro curiosamente mentre stava finendo di girarlo, una cosa piuttosto strana, ebbene, quando andò a firmare il contratto, memore della famosa coda di pelliccia di Procione, chiese alla 20th Century Fox, che era la casa produttrice di Guerre Stellari, addirittura di avere meno soldi per la direzione del film rispetto a quelli pattuiti, ma di lasciargli diritti sui sequel e sul merchandise. Ai tempi i boss degli studios si misero a ridere, dandosi di gomito, perché appunto tieni pure. Bravissimo, non esisteva nemmeno un reparto merchandising nelle major cinematografiche. Un piccolo dettaglio: prima che Disney rilevasse Lucasfilm nel 2012 per più di 4 miliardi di dollari, l'esalogia ai tempi di Guerre Stellari aveva incassato al botteghino 4,4 miliardi di dollari. Piccolo dettaglio: il merchandise sfiorava i 30 miliardi di dollari. Il giovane George Lucas aveva forse intuito qualcosa che cinema ha intuito 10-15 anni più tardi di lui. Questa volta cosa succede con il merchandising? Di tutto, ce n'è per tutti i gusti. Andiamo da un letto per bambini a foggia di Millennium Falcon, la famosa astronave di Han Solo, arriviamo alle declinazioni elettroniche da una parte. Star Wars è anche un franchise per l'industria dei videogiochi, ovviamente, che dentro si trovano personaggi e storie infinite. Per esempio ne cito due: anzitutto Star Wars Droid Repair Bay, che è un'esperienza in realtà virtuale, gratuita peraltro, chiunque avesse un Vive potrebbe goderne. E in cosa consiste? In un'officina in cui riparare i famosi droidi astrostellari che come dire, sono peraltro gli unici protagonisti dal primo episodio fino all'ultimo di Guerre Stellari. Uno si mette il casco, è nell'officina di Poe Dameron, uno dei nuovi protagonisti di Guerre Stellari, e si occupa appunto di questi amici robotici che accompagnano la saga. Molto molto gustoso e, ripeto, gratuito. Una delle cose più interessanti, invece, se volete, soprattutto se come me avete un po' di allergia ai mestieri casalinghi, sono i Powerbot di Star Wars. Li ho visti anch'io, no, sono impazzita. Cioè gli aspirapolvere, quelli automatici, ma a forma... No, bellissimo, Star Wars, a tema Star Wars. Sono pazzeschi e sono estremamente utili, quelli davvero come dei robot del futuro. Sono, come dicevi tu, due aspirapolveri robotici, di quelli che ormai siamo anche abituati a vedere, con una differenza: sono a foggia di personaggi di Guerre Stellari, ci sono le guardie imperiali e, perché no, c'è anche appunto Darth Vader. Perché non farsi pulire casa da Darth Vader? Questi sono un po' più costosi, perché andiamo dai 400 dai 500 ai 600 euro l'uno, però ripeto, se come me avete orrore dei misteri casalinghi e vi fa meno paura Darth Vader, questa è un'ottima scelta. Videogiochi? Ecco, c'è un caso molto curioso e peraltro significativo di una tendenza di tutto il mercato, che è arrivato alla ribalta un paio di settimane fa, perché Electronic Arts, il più grande publisher al mondo dal punto di vista degli incassi, ha pubblicato il famoso Battlefront 2, che è un FPS, cioè uno shooter, uno sparatutto, dedicato all'universo di Guerre Stellari, che peraltro ha i personaggi del nuovo episodio. Cos'è successo? Che l'episodio costa circa 60 dollari, ma un po' di settimane prima che uscisse è diventato ufficiale il fatto che per manovrare, per avere i personaggi più iconici della saga, appunto Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, occorreva o giocare o dedicare 40 ore a ciascun personaggio, oppure per essere, come dire, per avere la vita semplificata, spendere ulteriori soldi. Però scusa Emilio, io sono abituata agli acquisti cosiddetti in app per i giochini sul cellulare, che magari per avere delle vite in più oppure dei bonus, dei cosiddetti booster, i cosini che ti aiutano, però sono pochi euro e poi sono giochi gratuiti. Il punto è proprio questo, che sono giochi gratuiti, quindi quello è un modello che l'industria, soprattutto appunto del digitale trasportabile dalle app ai tablet, si basa, cioè il modello freemium, laddove tu, avendo l'applicazione, il gioco gratuito, poi puoi in qualche modo avere un'esperienza più coinvolgente, spesso acquistare degli elementi cosmetici con pochissimi euro. In questo caso è un po' diverso, perché il gioco si paga a prezzo pieno. Ulteriormente si possono avere dei vantaggi di gioco spendendo più soldi o dedicandoci più tempo. Benissimo, 675.000 giocatori si sono lamentati su Reddit, che è un sito di commenti. Addirittura il 4% del valore di Electronic Arts in borsa il valore è caduto del 4% in 24 ore. Bob Iger, presidente uscente di Disney, ha chiamato personalmente Electronic Arts per dire: togliete di mezzo questa dinamica, che evidentemente non è stata ben apprezzata dai giocatori. Beh, anche non perché solo, hai detto che 60 euro costava già da solo. Esattamente. Vabbè. Non solo, alcuni governi, con quello del Belgio e delle Hawaii a fare da capofila, stanno in qualche modo accertandosi che quella dinamica, soprattutto perché parliamo di un gioco che ha una diffusione pazzesca, magari anche sui più piccoli, ebbene, quella dinamica non possa separare il gioco al gioco d'azzardo, il che innesca tutt'altro scenario ed economico e giuridico. Quindi insomma, guerre stellari, ma anche guerre in tribunale potrebbe essere. Ripeto, in questo momento è stata annunciata il rinvio, se non altro, di questa dinamica, per cui adesso il gioco, che peraltro è molto bello, si può giocare tranquillamente, però insomma il caso è piuttosto significativo, perché poi non è limitato solo a Battlefront, ma riguarda sempre più giochi cosiddetti tripla, cioè quelli, come dire, i blockbuster del videogioco. Tantissimi giochi stanno andando in questa direzione ed è evidente e urgente che forse ci si metta, non dico una pezza, ma che se non altro ci si pensi bene prima di fare ulteriori passi avanti in questa direzione. Grazie Emilio Cozzi, chiocciola, addio e grazie per, torna presto con noi, grazie Emilio, ciao! A voi, a presto! E noi partiamo per un brevissimo, ma sempre molto bel viaggio. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Matera è nota anche col nome di Città dei Sassi, per via dei suoi storici rioni, chiamati appunto Sassi. Si tratta della parte vecchia della città, che si divide in tre aree: il Sasso Barisano a nord-ovest, il Sasso Caveoso a sud e la Civita, che li divide al centro. E questo è, come sempre, il momento nel nostro RadioTube di partire. Avete già sentito qualche istante della radioguida che, come sempre, abbiamo in collaborazione con il Touring Club Italiano sul sito del Touring e sul sito di Radio 24. Ma dove ci porta la radioguida questa settimana e dove ci porta Annarita D'Ambrosio? Glielo chiediamo subito. Ciao Annarita, dove andiamo? Ciao Marta, ciao. Andiamo a Matera, che è un posto bellissimo. È un posto anche cinematograficamente molto interessante. Tu, guarda, che di cinema, allora, te ne intendi? Gli ascoltatori non possono vedere la mia faccia, ma io ho la faccia di quella che è un sacco di tempo che vuole andare a Matera e non c'è ancora riuscita. Questo è gravissimo, però sì. Hai un appuntamento già fissato. Quello obbligatorio, quello lì è proprio obbligatorio, nel 2019, quando Matera sarà capitale della cultura. Noi proprio su questo vogliamo fare il punto. Abbiamo un ospite, lo ringraziamo, in collegamento con noi, Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019. Salve. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. E benvenuti a Matera. Oh, benvenuti, che meraviglia. A Matera, vi aspettiamo. Con l'audioguida immagino che ci saremo già quasi anche un po' dentro. Sì, però noi vogliamo sapere che cosa si sta facendo, perché veramente nel 2019 Matera, io dico, ci sono continue prove generali, direttore, possiamo dire così, perché anche queste celebrazioni di Natale sono un po' una prova generale, cioè Matera è da visitare sempre anche in attesa delle grandi celebrazioni del 2019. Assolutamente sì, anche perché è un percorso che noi abbiamo cominciato a strutturare nel 2011, quando abbiamo avviato la candidatura. E non so se avete letto questa notizia che ci ha riempito d'orgoglio: Matera è il sesto sito UNESCO più amato al mondo. Accidenti. È stato fatto un report da un'agenzia internazionale, e quindi siamo veramente ricchi d'orgoglio in questo momento, ma soprattutto ricchi di attività. Questa settimana inauguriamo una mostra che si chiama Matera Immaginata, 70 foto dei più importanti fotografi internazionali, realizzate in collaborazione con l'American Academy di Roma, che è già stata a Roma e che andrà poi negli Stati Uniti. E abbiamo una mostra bellissima per Matera ospite di Marte, si può visitare una mostra meravigliosa per come la gente abiterà su Marte tra 30 anni, tutto questo si sta svolgendo in questo momento a Matera, il 19 gennaio 2018, quindi un anno prima esatto della cerimonia inaugurale, che sarà il 19 gennaio 2019 alle ore 19, un venerdì sera, in cui porteremo 2019 musicisti da tutta Europa. Straordinario. Però un anno prima ci sarà una grande festa in cui i cittadini scopriranno il 50% del programma e scopriranno anche come diventarne parte integrante, perché questa è la specificità di Matera, che produce cultura dal basso, produce cultura collettiva, e lo produce in questi spazi meravigliosi, perché l'architettura di Matera, l'architettura di Sassi, è costituita da quelli che chiamiamo vicinati, cioè da delle piccole, piccolissime piazze sulle quali affacciano queste case di due, al massimo tre piani, che costituiscono un unico grande alveare che è diventato una meta fra le più ambite. Obbligatoria, direttore, una meta obbligatoria. Posso farle una domanda personale? Lei è torinese, ma oramai è innamorato di Matera. Che cosa le è piaciuto? Cioè l'impatto che ha avuto con Matera, qual è stato? Ma guardi, io abito in una casa che guarda la Murgia e dalla quale, come ho scritto, sento il rumore dei cavalli di Tex Willer e dei suoi parts. Quindi sono innamorato di questo confine meraviglioso fra il finito e l'infinito, fra l'umano e il divino. Marta, e allora è gravissimo che tu non ci sia stata. Il direttore ti ha ufficialmente invitato. Non so se posso invitarla così in diretta, ma mi piacerebbe veramente che lei fosse nostra ospite. Sono... per colmare questa lacuna. Ho già le valigie perché mi sta venendo veramente una rabbia per non esserci ancora arrivata, e quindi basta, sono virtualmente già lì, mancherà pochissimo, arrivo. Io ho origini lucane, quindi per me la Basilicata, insomma, non me la deve toccare nessuno. Vabbè, quindi puoi venire con me a farmi anche un po' da guida. Poco, ci affidiamo comunque agli esperti. Però intanto in questo periodo di Natale, questo voglio dirtelo perché insomma è una chicca in più, c'è il presepe vivente di Matera, che è tra i più grandi del mondo. Quindi già lo scenario è quello che ci ha descritto il direttore. Radio guida, partenza, valigie, Matera. Se non mi sentite dopo la pausa vuol dire che sono già scappata. No, scherzo. RadioTube oggi lo finisco, ma organizzo al più presto questo viaggio. Grazie Anna Rita. Grazie a voi. RadioTube Social Village. Donna pazzesca, perché ve lo dico io che la vedo dal vivo, è bellissima. Sono contenta. Grazie. Di avere qui con me Marcella bella. Ma come ci si sente intanto ad avere un nome di battesimo che in Italia un po' impegnativo, cioè, perché un po' tanto impegnativo. Tutte le Marcelle vengono dopo di te, perché Marcella è di Marcella, ce n'è una Marcella, e poi soprattutto questo Bella, che insomma è abbastanza impegnativo. Hai dovuto... però ormai sono abituata, poi da quando poi si è messo a cantare anche Gianni, perché all'inizio io ero solo Marcella, proprio perché non volevo non volevo che pensassero che fosse un nome d'arte. Ah beh, certo. Ecco. E poi invece quando si mise a far dischi anche Gianni, perché all'inizio Gianni faceva solo l'autore, poi cominciò a cantare anche lui con Non si può morire dentro, sai, che fece un successo straordinario. Guarda, l'ho beccata qualche sera fa in radio, sì, quelle radio che fanno anche una programmazione, sì, ma me la sono cantata tutta a squarciagola. Che grandissimi pezzi. È una di quelle pezzi, canzoni evergreen, sì, che ti piace, sì, sempre ascoltare. E allora dopo, quando è uscito Gianni Bella, ho detto, beh, adesso non ci saranno più equivoci, capiranno che è il mio vero cognome. Ma incredibile, una vita dover essere all'altezza del proprio cognome e farcela sempre. Una donna bellissima. Grazie, ma sei troppo buona. No, dai, no, lo dico perché sai, poi magari gli ascoltatori e le ascoltatrici dicono, vabbè, ma la radio noi non vediamo, dobbiamo fidarci. Eh sì, vi dovete fidare di me. Allora, metà amore, metà dolore. Che bello uscire con un CD nuovo, di inediti, ma poi così potenti, dopo qualche anno. E poi un bel disco, perché è un disco elegante, un disco molto curato, perché il mio produttore è uno molto forte che si chiama Mario Biondi e che ha prodotto questo disco. Anche lui è un MB come me, MB, abbiamo tutti e due le stesse iniziali, e ha prodotto questo disco, devo dire, in modo eccellente, perché l'ha curato tantissimo, i suoni, le canzoni, i testi, insomma è veramente bello. Non lo dico perché è mio, però è un disco che ascoltandolo ti dà soddisfazione. Ci sono dentro anche parecchi autori importanti, come Mogol naturalmente, che ha scritto dei testi, poi ci sono altri due miei fratelli che sono Rosario, che ha scritto delle musiche, lui ha fatto anche l'ultima poesia, ha scritto anche canzoni per Celentano, e Rosario Bella e Antonio Bella, e poi ci sono altri due giovani autori che uno ha curato anche gli arrangiamenti, che si chiama Max Greco. Visto che hai citato Mario Biondi, ma è vero che è nato dall'ultima poesia questo vostro connubio? Allora, diciamo che Mario è stato prodotto agli inizi proprio da Gianni, perché sì, sono sempre stati molto amici, addirittura Gianni era molto amico del papà di Mario, che anche lui era un cantante. Sì, che era un cantante anche lui, quindi dopo gli presentò il figlio, Gianni lo prese sotto le sue ali protettrici e dopo gli ha fatto fare, credo, delle canzoni, insomma ha cominciato a muovere i primi passi nella musica proprio con mio fratello. Poi ci siamo rivisti in occasione di Serata Bella che ho dedicato, sai, su Rete 4, che andò benissimo, successo travolgente. Che vuol dire che c'era, esatto, grande affetto per te, certo, per tuo fratello, al quale vogliamo tutti un bene e gli ho enorme dedicato questo concertone, e c'erano anche molti suoi amici come appunto Mario Biondi, Loredana, Tozzi e insomma tanti amici che gli vogliono bene. E allora ci siamo rivisti, abbiamo cantato insieme l'ultima poesia, poi abbiamo detto ma facciamo anche qualcos'altro, ed è nato questo disco. E perché metà amore metà dolore? Perché sai, il titolo di un album è subito, no, quello che sì, il manifestone, metà, no? Amore metà dolore è un testo che ha scritto Mogol per il nostro duetto, è il duetto, quindi è il pezzo diciamo un po' più importante, quello che rappresenta un pochino tutto il disco. È il duetto con Mario Biondi e parla di un grande amore pieno di passione, ma come tutte le cose molto passionali ti fanno anche un po' soffrire, e quindi non c'è grande amore senza un grande dolore, perché insomma sono due persone che non riescono a stare insieme, però non riescono a stare neanche lontani, e ce ne sono veramente tanti di questi amori che così combattivi, così contrastanti. Succedono. C'è anche una canzone dedicata a Gianni, perché sì, per te è sempre una presenza importantissima. Abbiamo visto che anche comincia a stare anche meglio, quindi insomma sì, dopo è venuto tanti anche in trasmissione con me di recente, abbiamo fatto Porta a Porta insieme, siamo stati lì, lui ha assistito, ha anche canticchiato Io non so parlare d'amore insieme a me. Beh, lui sai cosa ha, questa grande voglia di vivere, di star bene, e soprattutto in questa malattia mi ha insegnato che nella malattia si può avere anche moltissima dignità. lui proprio è perfetto, non si vergogna di avere quell'handicap che non riesce a parlare, perché non riesce a dire bene le parole, perché tu sai che è stato colto da ictus a metà corpo, però ha riacquistato, diciamo, a muovere il braccio, la mano, perché è stato molto testardo. Sì, voleva assolutamente camminare tutto, però non riesce a dire bene, a parlare, e quindi però riesce a canticchiare. E allora la cosa bellissima è che lui, io l'ho pregato tanto di tornare a suonare, a provare a scrivere canzoni, perché lui dice che le canzoni adesso le ha tutte in testa e fa fatica a tirarle fuori. Allora c'è l'altro mio fratello Rosario che suona il pianoforte, guarda, è una cosa da brividi, che meraviglia. Sì, lui gli suona gli accordi così, e Gianni gli descrive le note, come deve farle. Che bella storia. E mi hanno scritto una bella canzone. Che bella famiglia. Sì. Hai avuto difficoltà a parlare dell'oggi con un passato, una storia così importante, ingombrante come hai tu? Cioè a parlare di questo disco e non, vabbè, ma rifacciamo Montagne Verdi, ma raccontami di quella volta guarda, hai toccato un tasto un po' dolente, perché in televisione soprattutto ogni volta che vado dico, vabbè, presento il mio nuovo lavoro, io tutta entusiasta, e loro mi dicono, sì, ma ci fai un po' di Montagne Verdi, ci fai un po' di Io Domani, ci fai un po' di Nell'aria, e dico, però quello è il mio passato, però tu sai che senza il passato non c'è né presente né futuro, e quindi non bisogna rinnegare tutti i grandi successi che ho fatto, che abbiamo fatto io e mio fratello, e la gente ci identifica ancora con questi successi, e bisogna avere la forza di dire no ogni tanto, perché per esempio dopo 45 anni che canto Montagne Verdi, di recente ho cominciato a dire no, non la faccio più Montagne Verdi, ma perché proprio l'ho cantata talmente tante volte, è sempre nel mio cuore, perché comunque poi è ancora bene Montagne Verdi, sì, perché poi tu la senti, non è una canzone datata, è proprio un evergreen, i bambini la cantano ancora alle elementari, i maestri fanno cantare così, fa Montagne Verdi, perché è una canzone che è dolce, che è pulita, e quindi possono cantare ancora i ragazzini. Però voglio andare oltre e cerco di impormi in qualche modo, devo far capire che c'è anche il presente e anche, spero, il futuro. Non ti faccio la domanda diretta, però si è parlato tanto di te a Sanremo, ma a te piacerebbe, mettiamola così, tornare a Sanremo? Guarda, di per sé lo odio un po', una specie di odio-amore, perché ogni volta che sono andata ho avuto degli stress fortissimi, cioè mi vengono tutte le paturnie, e quindi in queste cose potrei fare assolutamente a meno di andare a Sanremo. Poi però c'è l'altro aspetto, è la vetrina migliore che tu possa avere per promuovere un nuovo disco. In questo caso che ho anche un long play fuori, sarebbe proprio come il cacio sui maccheroni, però non dipende da me, dipende dal quest'anno, dipende da un mio collega che stimo, che è molto bravo, che è Baglioni. Io spero che si metta una mano sul cuore e inviti anche oltre a tutti i cantanti giovani di dei reality, che tutti gli anni ce n'è una caterva, inviti anche i cantanti che hanno vissuto i momenti belli che ha vissuto anche lui, ecco. I tuoi desideri adesso quali sono? Allora, è proprio vero che io ho realizzato i miei sogni di donna, che quelli sono le più importanti, perché poi è chiaro che il successo l'avevo già, nel senso che io ho cominciato a 13 anni, a 16 ho fatto il primo disco, a 18 ero già famosa, e quindi dopo aver avuto tutte queste cose che erano i miei sogni di ragazzina, di bambina, no? Perché io sognavo già da bambina, dicevo io diventerò cantante e andrò a Sanremo. Questo non me lo toglieva da... Pensa che io da bambina dicevo io farò la giornalista, andrò al dopo festival di Sanremo. E l'ho fatto. E vedi, ma secondo me è molto importante. Questa è la cosa che manca ai giovani di oggi, compreso i miei figli. Perché ogni volta gli dico, cosa vorresti fare? Cosa vuoi diventare da grande? Che sono già grande. E loro, non lo so, ma Boh, ci devo pensare, ma che cavolo, non hanno sogni, non hanno motivazioni. Questa è una cosa brutta, invece io da bambina avevo già le idee chiare. Oppure, che ne so, dicevo, vabbè, se non farò la cantante farò la parrucchiera. Però avevo le idee chiare, tant'è che oggi, ancora oggi, mi acconcio i capelli da sola. Ma fantastica, non ci posso credere. Avevo un piano B. Beh, tu per il look sei sempre stata un punto di riferimento, tu sempre avantissima. Delle volte forse troppo, perché io mi ricordo che negli anni 80 mi vestivo alla Ya. E mi dicevano, ma cosa ti sei messa? Ma cos'è sto vestito così, che aveva tutti i tagli dietro, certo, sulla gonna, certo. I tagli. Però non, all'epoca non capivano. E io dicevo, ma la Ya, mamma mia, non capiscono niente. A Parigi e in Francia è famosissimo questo qua. Adesso purtroppo è mancato, ma lui è stato veramente uno dei più grandi stilisti del mondo. Mi piaceva essere elegante in modo diverso, disegnare magari i vestiti, li facevo realizzare. Ho una mente abbastanza eclettica, devo dirti. Io l'ho detto che questa donna è una forza, cioè non dovevo arrivare io per dirlo, ma insomma, perché lo sappiamo, però è veramente stato un piacere enorme poter chiacchierare con Marcella. Sei Bella, troppo gentile. Io davvero ti auguro tutto. Grazie Marcella. Grazie a te, un bacio a tutti, ciao. Penso che dovremmo forse diventare più comprensivi per restare ancora vivi insieme a noi. Litigare. Eccolo qua questo duetto pazzesco, Mario Biondi, Marcella Bella, grande, grande Marcella. Ma le amiche non sono finite, perché ce n'è un'altra tra poco. Una grande, grandissima puntata. Adesso Viabilità e poi saremo ancora insieme con un'altra amica di RadioTube. RadioTube Social Village. Benvenuti a Pechino, nell'impero di Altun. Tu devi scegliere uno sposo. Nessuno può toccarmi. Siete gelida. Allora, questo pomeriggio io faccio il Natale anticipato, mi sono fatta dei regali e ragazzi, qual è il regalo vero per una come me che, allora, adora le donne forti, adora le donne belle, adora le donne che sanno fare un sacco di cose e quindi adora Lorella Cuccarini. Ma che presentazione bellissima. Allora, no, ma perché grazie, poi sai che gli ascoltatori mi dicono, ah, ma perché tu per le donne hai un debole? Non è vero, solo per quelle che mi piacciono, le altre tutte stronze. Quelle che mi piacciono, girl power. Beh, noi ci conosciamo veramente da così tanti anni, siamo giovanissime, sì, infatti più o meno però, da tanti anni, sì, perché eravamo, insomma, a scuola, sì, all'asilo. Ci scambiavamo il ciuccio, diciamo. Lorella, che bel periodo, da cosa partiamo? Dal teatro? Non lo so, da dove vuoi, guarda, dai, è un periodo talmente bello, sì, possiamo partire dal teatro, perché anche poi, perché insomma, siamo qua a Milano, assolutamente, ti abbiamo rapito qui, regina di ghiaccio. Sì. Come mi sto comportando bene in questi giorni, diciamo la verità, oggi c'è stato anche un po' di vento, quindi insomma sto facendo il mio dovere, da diciamo, regina, ecco, l'hai, vedi, portato. Che brava. Com'è questa esperienza? Perché non è ovviamente la prima, non è la prima da cattiva, questa cosa che no, ti fanno fare la no. cattiva, mi piace tantissimo. Lo so, evidentemente mi sto specializzando, sono molto credibile. No, secondo me perché tu porti i ragazzi, anche i bambini a teatro e quindi capiscono che i cattivi in fondo non sono cattivi, perché se la cattiva è allora la Cuccarini, i cattivi non devono essere no, davvero ma tanto poi, cattivi. Ma poi è così, no, ma poi i cattivi non è che nascono cattivi, no? C'è sempre un motivo per cui diventano cattivi. E quindi noi raccontiamo un po' la storia di questa regina di ghiaccio, è stata un'esperienza, e è un'esperienza veramente esaltante, perché lo spettacolo è uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo importante, uno spettacolo magico, in cui insomma sul palcoscenico siamo in 20 e tutti ragazzi di grandissimo talento, per cui uno spettacolo per tutti. Io credo che sia un po' la prova di maturità di Maurizio Colombi, il regista, perché è riuscito a portare un titolo che insomma è un titolo anche un po' impegnativo, diciamo, no? Che è la storia di Turandot, è la storia di Turandot, insomma, è tratto dalla diciamo dalla fiaba persiana a cui si è ispirato anche Puccini per l'opera lirica, però lo ha trasformato in un musical con musiche tutte nuove e assolutamente avvincente, che veramente piace ai bambini dai 4 anni fino ai 90, insomma. Abbiamo un pubblico così variegato, insomma. Milano ci sta accogliendo con un calore incredibile. Milano fino a domani, poi Genova, sì. Sono preparata, poi andiamo a Cassano Magnago, sì, per 2 date, poi facciamo tutto il fine settimana prossimo a Genova e poi andiamo a casa, dove tutto è cominciato, a Roma, al Teatro Brancaccio, e ci staremo per tutto il periodo delle feste natalizie fino al 7 gennaio. Ma riesci a fare Natale in famiglia? Sì, guarda, solo il Natale, proprio 24 e 25 siamo fermi, ma io insomma sì, dire che mi riposerò è un po' difficile perché sarò lì a spadellare, insomma. Io poi di solito il Natale cucini? Sì, mi piace, non lo faccio quasi mai. Hai già deciso cosa cucinare? No, di solito il menù lo faccio 2-3 giorni prima. ci penserò fra una replica e l'altra. E i regali dove li compri? No, i regali non me ne parlare, guarda. Come io, come fai? Al solito, tutte le volte mi dico, mi raccomando, per i regali comincia prima, no? Verso ottobre, novembre. Sì, devi partire. Ma immancabilmente poi io mi ritrovo il 22-23 di dicembre disperata perché non ho fatto niente. Però non lo so, insomma, mi arrangerò in qualche modo. Anch'io li compro tutti 2 giorni prima. Vedi? E sono tutti pensatissimi. Pensatissimi, perché io ci penso prima e poi li tu vado a comprare. Tu ci pensi prima? Davvero? No, medito. O cresce il naso, ecco. Medito, stavo controllando. Ecco. No, la verità è che poi, sai, oggi è anche così difficile, perché poi io, quando ho voglia di fare un regalo, lo faccio, non è che aspetto il Natale o il compleanno, no? E quindi è molto difficile trovare poi quella cosa giusta per la persona giusta il giorno di Natale. Bello. Allora, anche se tu non hai più bambini piccoli, perché i tuoi figli sono tutti grandi. Beh, sono sempre bambini, dai, per quello coppia di un genitore. Quello è vero. Ne sto guardando una la di là dal vetro, piccolina di 23 anni, sì, che fra ride poco sotto i baffi, dice vabbè, sì, prendiamoci anche okay. Questa bambina. I bambini ti adorano da ormai qualche anno, anche adesso, perché com'è, come non è, insomma, ti trovi a teatro con la Regina di Ghiaccio, al cinema doppiando. Allora, a me viene sempre a dire mio mini pony, perché noi lo chiamiamo mio mini pony. È vero, è il piccolo pony, sì. Il mio mini pony, chiamalo come vuoi, sì. Tempest Shadow, quest'altro personaggio, anche questo personaggio malvagio, ma che ha una profonda umanità, insomma, è un personaggio molto, molto intrigante, nuovo della serie, e devo dire, il film è stato divertentissimo da doppiare, intanto perché io ho fatto pochissimo doppiaggio, ma credo che qui in Italia ci sia veramente la scuola di doppiaggio, una delle scuole di doppiaggio migliori che ci siano nel mondo, e poi perché è un film colorato, è un film per i bambini più piccoli, ma questi mini pony, diciamolo la verità, sono diventati un po' cult, no? Cioè sono poi, sì, personaggi che hanno accompagnato anche tante donne, no? Quando erano piccole, perché essendo nati negli anni 80, insomma, io per poco non sono stata... Io facevo finta di essere già grande, però date, io sono un po' più grande, quindi insomma, ero francamente, insomma, un po' fuori età, ecco, diciamo fuori target. Però effettivamente tante bambine sono cresciute con questi mini pony, ma le stesse figlie mie, insomma, che oggi sono grandi, hanno avuto comunque la loro piccola, no, il loro piccolo spazio dedicato ai mini pony, che insomma erano sempre di tutti i colori. Poi a un certo punto hanno cominciato a farli anche profumati, no? Per cui mi ricordo che c'era proprio la profumavano di caramella, era meraviglioso. E quindi insomma questo personaggio è stato bellissimo, anche perché poi c'è una canzone che credo sia una delle più belle veramente di tutto il film, in cui racconta anche un po' la sua storia e il perché lei sia diventata poi così malvagia. Senti, a proposito di canzoni, ma tu le metti mai le tue canzoni a casa? Perché no, io per le metto... carità. Io le no, metto tu tantissimo. Metti le tue, no, le mie. Le tue, no, sì, no, ma no, tu le però tue. Ogni tanto evidentemente devi avere proprio qualche momento ma difficile. Ma io stamattina arrivando qua mi sono messa su Spotify la compilation Cuccarini. Ma non me le ci sono... credo. No, ma io me le tu non le ascolti più? No, allora ogni tanto mi capita di ascoltare, ma ci sono le mie figlie che mi fanno gli scherzi. Ogni tanto in macchina, siccome hanno la playlist e si collegano così con il Bluetooth, ogni tanto mettono un pezzo mio, ma lo fanno più per sorridere. ridere, insomma, loro le riconoscono tutte effettivamente, ma io francamente no, insomma, non mi autocito di solito, non mi capita. Ci piacciono, a noi ci piacciono sempre così. No, per carità, mi fa molto molto piacere, però ecco, io di solito ascolto altro. Cosa ti piace? Sono curiosa. Ma non lo so, ultimamente per esempio mi piace moltissimo Lorenzo, questa canzone, Ho vita, devo dire, è proprio un inno che in qualche modo sento anche molto mio, perché c'è proprio questa passione per la vita che poi lui sprigiona, devo dire, è tangibile ogni volta che lo vedi sul palco, ma che lo vedi proprio in ogni intervista, per cui io proprio mi ci sento molto, mi sento molto vicina a lui da questo punto di vista. Lorella, io ho fatto un po' di così, mi sono ripassata un po', come se mi servisse la tua biografia, manca solo il cinema, sì. Cioè ragazzi, c'è il cinema non doppiato, manca solo un bel ruolo al cinema per Lorella. Sì, sì, effettivamente non è mai capitato, guarda, sono capitate proposte, però erano proposte per interpretare me stessa e francamente insomma non le trovavo così interessanti, però sai, insomma, anche con l'età, no, potrei essere, io dico sempre, un procuratore distrettuale, uno psicologo, non so, un ispettore, no, fino ad arrivare poi ad A spasso con Daisy, insomma, tutti questi, no, nel senso, davanti ho veramente un ventaglio vastissimo, sì, no, sì, di ruoli, quindi c'hai 30 anni di carriera, però, da costruire, insomma, però insomma, se invecchiamo bene gli spazi ci sono ancora. Ragazzi, viva le donne, non ho parole per queste donne, cioè se voi la vedeste dal vivo, che poi io poi quando spegniamo il microfono le chiedo un po' di consigli, perché veramente, ma di io cosa non so che non hai bisogno di consigli, ma smettila, che donna, ragazzi, che donna, voglio essere bionda e bella come la Cuccarini anch'io, forse un po' tardi, fa niente. Lorella, allora, qual è il regalo più bello che potrebbero farti durante le feste? Ma guarda, non lo so, io oggi sinceramente, se dovessi pensare a qualcosa, che naturalmente non è qualcosa di concreto, perché non credo di aver bisogno di nulla, ti direi la felicità dei miei figli. Perché è chiaro che se io potessi, no, ambire a qualcosa, è quello che mi farebbe stare veramente bene, è vedere i miei figli felici, soddisfatti di quello che fanno e che riescano soprattutto a scegliere di avere un mestiere che amano, che è un po' la fortuna che ho avuto io. No? E io veramente mi sento sempre molto, molto privilegiata, perché ho potuto fare quello che volevo fare da bambina e ho realizzato un sogno, per cui insomma lavoro, ma in realtà, no, uno dice lavoro, mi pagano anche per fare quello che mi piace veramente, che ho scelto fin da bambina, per cui mi piacerebbe che per loro fosse lo stesso. Pensa che mi pagano per chiacchierare. Vedi? Che cosa meravigliosa. Ma come chiacchieri tu? Per chiacchierare con Lorella come Cuccarini. Come chiacchieri tu? È incredibile questa cosa. Lorella, sono stata non felice di più, e so che gli ascoltatori l'hanno sentito, più che felice bello, di bello. Averti qui a Radio, no, 24. Sì, perché sono per una volta venuta qui, no, di solito ci sentiamo per sempre telefonicamente, invece oggi bello, vivo. Poi in questa giornata così tranquilla, no? Sì, poca gente. Sì, poca gente, ma insomma siamo pochi ma buoni. Lorella, allora, ancora a Milano, fino a domani, la Regina di Ghiaccio. Stasera, domani, proprio gli ultimi spettacoli. Poi vabbè, ti seguiamo in giro, ti veniamo a vedere, io ti vengo a vedere a Roma. Un ti abbraccio aspetto, grande, grandissimo. A presto, Lorella. Grazie, ciao a tutti.